vi ringrazio per questa opportunità di terminare il nostro anno scolastico presentando una grandissima antenata che concluderà con bellezza, con la gioia e in modo molto elevato il nostro anno così difficile e travagliato. Vi presento Elena Reri, Elena, figlia di Ekaterina, sposata, coniugata a Rerich. Se chiediamo chi è, se andiamo a consultare Wikipedia o leggiamo la sua descrizione della sua biografia, ci dicono che Elena è stata una filosofa religiosa russo, oppure un filosofo esoterico, la scrittrice e una grande moglie del pittore Nicolae Rerich. Lei è nata il 12 febbraio del 1879 a San Pietroburgo, in famiglia di un architetto famoso, Ivan Shaposhnikov, e la sua moglie Ekaterina, appartenendo alla alta nobiltà, della alta nobiltà aristocrazia russa. Sulla linea materna, lì era pranipote del feldmaresciallo Kutuzov, quello che ha fermato Napoleone in Russia, e era anche uno dei nipoti del compositore Mussorgskij. Lei è uno dei tre bambini di questa famiglia, però i suoi fratelli purtroppo sono morti in età abbastanza giovane. Elena, fin da piccola, era una bambina molto particolare. Prima di tutto era veramente molto bella, molto sensibile e molto sensibile alla bellezza e alla sincerità. Lei fin da piccola non sopportava alcune impurità, tutte le impurità, ozio, chiacchiere, pettegolezze o azioni che si può considerare impure. Era molto bella, era amata da tutti, ma aveva un rapporto abbastanza difficile con sua mamma, ma era molto accoccolata da suo papà. Fin da piccola ha avuto una propensione per lo studio e una grandissima memoria. E a 6 anni già fluentemente leggeva e scriveva in russo, francese e tedesco. Non le interessavano le fiabe per i bambini, ma le interessavano i volumi più importanti. Due di quelli erano libri sulla cultura orientale e soprattutto sulla Cina e Giappone. Leggeva tantissimo, andava nella biblioteca del suo papà di nascosto cercando di leggere tutto ciò che è possibile. Fin da piccola ha avuto un dono di aveva dei sogni premonitori e un dono di chiaroveggenza. Spesso lei prevedeva alcune situazioni che succedevano poi, e fin da piccola la sua famiglia prestava molta attenzione di quello che diceva la Elena, perché diceva esattamente ciò che avveniva con qualche tempo dopo. Ha finito brillantemente il ginnasio, ma i genitori hanno cercato di estraniarlo allo studio nelle università che proliferavano in quel momento a San Pietroburgo e ammettevano anche le donne perché avevano paura del suo carattere ribelle e avevano paura che diventava un rivoluzionario. Volevano farla sposare con una persona del suo rango, ma lei rifiutava i matrimoni e rifiutava la vita aristocratica che secondo lei era vuota e priva di interesse, e priva di spiritualità. Ha conosciuto da giovani in un incontro casuale dei suoi parenti, giovani Nicolai Rerich, che è venuto da suo papà a chiedere permesso di fare scavi archeologici. Nicolai Rerich era un giovane magia molto famoso, pittore che dipingeva prevalentemente motivi della storia russa. Studiava archeologia faceva carriera in questo momento. Quando si sono conosciuti, si sono piaciuti subito. Infatti, tutti e due scrivevano diari, come era quasi d'obbligo in quel periodo per le persone del loro rango, e tutti e due hanno scritto nel giorno quando si sono conosciuti, quando si sono incontrati, che hanno avuto un incontro speciale. Hanno cominciato a frequentarsi, malgrado la mamma non era tanto contenta, ma avevano tantissimi interessi in comune. Fin dal primo giorno Nicolai ha scritto che ha conosciuto una donna speciale, particolare, l'ha chiamata Lada. Lada è il nome di una divinità femminile nel Pantheon slavo, che è divinità della primavera, dell'abbondanza, dell'amore coniugale, dei riti del matrimonio. Quando un uomo voleva dire che vedeva nella donna tutta la bellezza e regalità e divinità, la chiamava Lada. Nicolai Rerich, che era molto immerso nella cultura antica slava, ha scelto questo nome perché Lada e Svaruga, nella loro unità, sono considerate le forze originali che hanno creato la vita sulla Terra. E questo ha segnato tutta la loro vita in futuro. Elena, nonostante l'esistenza dei genitori, si è opposta a tutti i matrimoni proposti e resistita al distacco che è stato proposto prima da parte dei genitori e poi invece per il suo studio in Europa. Hanno resistito tutti e due scrivendo entrambe le lettere dell'amore che è nato tra di loro, che è basato su unione di interessi e sulla spiritualità che condividevano tutti e due. Finalmente, nell'agosto di 1901, si sono sposati e nel 1902 hanno avuto il figlio Yuri, il primo figlio Yuri, in futuro un scienziato orientalista, con il nome mondiale, e poi ad ottobre 1904, Svetoslav, in futuro un artista, pensatore, filosofa. Fin dall'inizio Elena ha cominciato personalmente a educare e istruire i figli per poter sviluppare al meglio le loro capacità. Infatti tutti e due sono diventate persone brillanti. La loro vita matrimoniale era perfetta. Tutti vedevano che Nicolai ammirava la sua moglie, e non soltanto la sua bellezza, la sua origine, ma soprattutto le sue capacità e la sua capacità di esprimere la propria spiritualità, illuminare qualsiasi cosa che toccava e che vedeva. Nel 1903-1904 lui ha avuto un incarico di fare un'espedizione su antiche città russe per vedere e studiare reperte antiche della storia russa pre-cristiana e cristiana. Hanno visitato tantissime città, hanno vi visitato tantissimi monasteri. Nicolai lavorava soprattutto come archeologo, studioso, linguista e etnografo e dipingeva. Invece Elena ha imparato la fotografia e ha fatto più di 500 le foto su queste reperte dell'antichità. Scriveva lì nel diario che hanno visitato tantissimi monasteri e diceva che quelle femminili erano bellissime e quiete, invece quei maschili erano terribili. I monaci si ubriacavano e facevano le risse. Al ritorno di San Pietroburgo, la famiglia faceva la vita di successo. Insieme lavoravano, giravano il mondo per le mostre dei quadri Nicolai che acquisivano sempre a maggiore rilevanza e successo. Lui ha avuto l'incarico di direttore della scuola per l'incoraggiamento delle belle arti in Russia. Fu eletto l'accademico dell'Accademia Russa di Belle Arti. Elena partecipava a tutti gli impegni attivamente, come la sua musa, come la sua guida, come la sua ispiratrice, consulente, il suo appoggio, il suo sostegno e la sua luce, come chiamava lui, la moglie. Andava tutto bene, la vita si svolgeva in modo eccellente e brillante, ma a un certo punto la Elena, una sera, come ha scritto nel suo diario, ha detto al suo marito: basta. Io sono stanca a vivere la vita tua, vorrei fare la vita mia. E sentirlo dire da un brillante attore di successo era una cosa strana, ma cosa ha risposto lui? Ha risposto: d'accordo? D'accordo, ha detto Nicolai. Allora guida tu, io ti seguo. E da questo momento è cominciata la parte più importante e più significativa della loro vita insieme, la loro vita di famiglia insieme. Infatti, tanti anni dopo, il loro figlio Svetoslav, il loro secondo figlio, diceva che proprio la madre era la guida nella coppia di Erich. Elena si interessava fin da piccola della cultura dell'India e dell'Oriente in generale. Aveva persino dei parenti viaggiatori in India che si sono persi in India e non sono mai più tornati. Avevano gli antenati provenienti dal Mongolia. Avevano, narrava la storia e la leggenda che avevano anche parenti, erano imparentati con Genghis Khan. Dopo la loro spedizione scientifica in Russia centrale, hanno visto che la toponimica russa e indiana coincidevano in gran lunga e hanno voluto approfondire la presunta unione della cultura indoeuropea. Ma non era stato proprio quello che spingeva la Elena. Quando diceva che la Elena fin da piccola aveva i sogni premonitori e aveva delle visioni, lei fin da piccola ha visto un sogno, una visione che si ripeteva e si ripeteva. Ha visto come lei poi ha riconosciuto di Mahatma Maurya, come scrive dopo lei. All'inizio da piccola non sapeva cosa fosse, le dava nome di Cristo, dava nome di quelli che conosceva, nomi cristiani, perché era profondamente immersa nella spiritualità, quelli che poteva conoscere. E lei sentiva che questa persona, queste due persone che la frequentavano, come se lavorassero su di lei fin da piccola. Lei aveva un po' di riguardo verso queste persone, ma non proprio paura. In più ha predetto, ha visto tantissime visioni, sia personali, sia della famiglia, sia, per esempio, ha predetto la rivoluzione in Russia, ma ha visto che per esempio la sua famiglia è rimasta, come si dice, intatta, no, non coinvolta. Queste visioni comparivano sempre di più. E lì ha detto al marito: andiamo in India. Però il loro viaggio in India ha avuto un grosso ritardo. Prima, nel 1917, sono andate in Finlandia, a Sottvallo, per questione di salute di suo marito. La rivoluzione bolscevica le ha trovate lì. Loro, volendo andare in India, non potevano accettare la cittadinanza russa, perché altrimenti Oriente, che era dominato dall'inglese, era precluso per loro. E allora hanno deciso di non accettare la cittadinanza russa e si sono emigrati in Austria, in Inghilterra, dove hanno conosciuto Rabindranath Tagore e hanno incontrato la società teosofica Elena Blavatsky. E si sono avvicinate a questa alla dottrina occulta e sono state diventate membri del centro teosofico di Elena Blavatsky. Ha cominciato a tradurre la dottrina occulta. In un giorno ha incontrato di persona la Mahatma Maria in un parco, come scrive lei. Contemporaneamente hanno cominciato a portare i cerchi spiritualiste, dove, come si usava in quei tempi, dove cercavano di parlare con gli spiriti, ma Elena e Nicolai non trovavano tanto interessante questi cerchi e l'hanno fatto a casa loro, nella loro famiglia, dove, come dicevano loro, sono riusciti a collegarsi con questi Mahatma. E ha cominciato a sentire indicazione spirituale e pratiche concrete da questi Mahatma viventi, che le davano indicazioni molto concrete. Nel 2020 Elena ha cominciato a scrivere queste lettere e a lavorare sul lavoro di tutta la sua vita, dottrina Agni Yoga o etica vivente. Lei stessa conferma che non è stato inventato da lei, non è frutto del suo pensiero, ma solo quelle che aveva sentito e quelle che aveva trasmesso, quelle che è stato dettato a lei attraverso Mahatma, soprattutto Mahatma Maria. E le dà, da, che dà alla famiglia un compito ben preciso. Le ha chiesto di andare negli Stati Uniti con tutta la famiglia, trasferirsi lì con un compito di portare la spiritualità del vecchio mondo nella cultura pop di America che si sviluppava in quel periodo. Loro sono andate lì, Nicolai ha seguito sua moglie e l'ha sempre accettato come guida. Da allora lui ha cominciato a disegnarla in vari modi come una spirito guida. Infatti ha tanti quadri che sono stati elaborati più volte, dove rappresentano una coppia, lei e lui, dove lei fa la guida e lui la segue su alture di montagne, su abissi, dove lei lo porta su, dipinta come se fosse una divinità che segna la strada per un essere umano, per essere vivente. Sono andata negli Stati Uniti e prima, essendo poco conosciute, sono diventate famose grazie al loro lavoro. Hanno fondato la Core Ardents, Società Internazionale delle Artiste, e il Master Institute of United Arts nel 2021 e Corona Mundi, Centro Internazionale dell'Arte nel 1992. Anche negli Stati Uniti hanno fatto una vita molto impegnata socialmente, artisticamente, ma soprattutto spiritualmente, perché Elena insiste che la comunicazione con grandi maestri diventava sempre più forte. Nicolai Erich, suo marito, ha cominciato a disegnare una serie di quadri ispirati a questa dottrina di Agni Yoga. Lei ascoltava i messaggi e scriveva la dottrina. Lui disegnava. Infatti, lui stesso scriveva: che tutti i miei opere d'arte devono portare due nomi, maschile e femminile, perché tutte sono state fatte insieme. Lei è stata la ispirazione, ha dato il soggetto, ha dato l'idea, ha ispirato me personalmente, io ho soltanto disegnato. Elena era il cuore, la guida e colonna portante della famiglia Rerich. Tutta la famiglia, prima di tutto il marito e poi entrambi i figli, consideravano il ruolo di Elena in modo straordinario, come un genio della loro famiglia. Il figlio stesso, il secondo figlio, diceva: per tutti noi e per chi la conosceva e sentiva, la percepiva, entrava in contatto con lei, era come affermazione vivente dei valori più alte, delle verità eterna. La sua vita era un facchio che disegnava e illuminava la vita, per chi voleva seguire la strada, della conoscenza, della bellezza, dell'arte, della spiritualità. Inoltre, lei, nonostante tutto, era veramente molto modesta. Lei, scrivendo tantissimo, anche i libri suoi, scritti proprio da lei, non si fermava mai, non firmava mai il suo nome, ma scriveva sempre con i pseudonimi, prendendo vari nomi. E chiedeva loro: lasciatemi scendere dal piedistallo, che mi avete creato con il vostro cuore pieno di amore. Io voglio essere semplice e amo la semplicità. Tutto il resto per me non è consono. Non mi piace insegnare, mi piace soltanto di trasmettere la conoscenza. Poi sono ritornate in Europa. E come scrivono loro, nel 1923 hanno avuto a Parigi una consegna, un pacco molto particolare, un pacco da Mahatme con una pietra, un pezzo di pietra molto particolare, pietra Cintamani. Qui andiamo nell'ambito mistico e anche leggendario, perché non esiste una testimonianza presente, un documento che conferma, testimonia questa pietra Cintamani. Ci sono tantissime leggende, quindi noi non possiamo affermare che questo fatto è esistito, però loro confermano che è la verità. Pietra Cintamani è la meteorita arrivato dal Urione, così narrano i grandi anime. Il meteorite stesso si trova in Tibet, dicono loro, in profondità della terra. Emana alte vibrazioni e crea un campo all'interno del quale le anime cominciano a cambiare la loro vibrazione e fanno la trasformazione spirituale. Per quello che il Tibet è un posto dove tutti vogliono andare, soprattutto chi si è attratto dalla spiritualità. Dicono loro che pezzo di questo meteorite aveva aria Salamone, un altro pezzo aveva Napoleone, poi invece l'ha usato male, e che quando arriva questa pietra a qualcuno vuol dire che deve fare un grande opera, un'opera particolare. E la particolarità di questa pietra che viene consegnata a un uomo, ma solo a una condizione, che deve essere custodita da una donna, dalla sua consorte, dalla sua musa, dalla donna che merita di essere custode di questo tesoro, perché altrimenti non funziona. E lui l'ha consegnata alla sua moglie. Dicono che questa pietra trasforma la vibrazione a chi la custodisce, e Elena stessa scriveva nei diari che ha avuto all'inizio difficoltà di accettare questa pietra, che la bruciava fisicamente, le faceva la trasformazione sua che ha avuto, è stata molto difficoltosa, molto pesante, ha avuto dei disturbi di salute. La sopravvissuta. E ha cominciato, si è messa, tutta la famiglia si è messa veramente a eseguire la strada che disegnava la guida, disegnavano le guide. Questi diari sono parzialmente accessibili, parzialmente sono ancora nascoste perché fanno ancora patrimonio della famiglia Rerich e non tutte sono state rivelate, alcune sono custodite e vengono aperte al pubblico nel tempo che decide la famiglia, che hanno un'equazione ben precisa, probabilmente data da lei stessa. Secondo la leggenda, questa Centamani arriva una volta a 100 anni più o meno, quindi quando compie il suo compito scompare e poi ricompare ancora. E forse adesso sta arrivando il momento che questa pietra potrebbe ritornare ancora tra qui presente. Loro vanno in India e nel 1923 incontrano questi Mahatmi dal vivo in un tempio di Darjeelinga. E dal 2024 cominciano a contattare con questi Mahatma personalmente in India. E lei scrive a questo punto il suo libro, L'esperienza di fuoco, L'esperienza trasformativa di fuoco, e continua a scrivere i propri libri dedicati alla trasformazione attraverso la trasformazione energetica del fuoco. Nei libri di Agni Yogi, che sono 14 volumi, parlano della descritta una dottrina di nuovo giro di evoluzione spirituale del nostro pianeta, arrivo alla terra delle nuove energie, il nuovo modo di comportamento umana della energia psichica, cioè allargamento, ampliamento del contatto con forme di vita non umane ma più sottile, e formazione della nuova razza, come lei la chiamava, la sesta razza, che noi stiamo alla fine della quinta e sta arrivando la sesta. Quindi dottrina etico-spirituale comprende evoluzione spirituale umana, principi della responsabilità non solo delle proprie azioni ma dei propri pensieri e soprattutto unione e collaborazione del principio maschile e femminile che sta a base della spiritualità è stata la base del matrimonio dei coniugi Rerich. Il contatto con Mahatma li porta a formare una spedizione centrale asiatica, perché i Mahatma chiedono di portare un messaggio alle autorità russe, sovietici, di creare nel territorio sovietico un nuovo mondo basato sui principi di nuova etica e di spiritualità. Ufficialmente questa edizione che ha attraversato l'India, la Mongolia, Altai, Russia, arrivava a Mosca, ritornava ancora ad Altai, Cina, ritornava in India, comunque è durata dal 1923 al 1928, è durata tutto questo tempo. Ufficialmente doveva conoscere il patrimonio culturale dell'antico Asia centrale, osservare diciamo, la religione corrente, usi e costume dei popoli viventi e creare le carte geografiche più precise di queste terre, materiale linguistico, etnografico, culturale e religioso, delle culture della regione. Però effettivamente quelle che sanno tutti e sapevano già loro contemporanei che loro chiedevano, che cercavano la Shambhala. Quel paese mitico in Tibet che molto probabilmente era in Altai. Quindi la loro spedizione era molto particolare. Dall'India sono andate dalla parte sud dell'India in Russia fino a Mosca e poi da Mosca, attraversando la Russia la seconda volta, sono andate in Altai e volevano andare in Tibet. Loro in Russia hanno portato il messaggio dei Mahatma e la terra sacra per metterla nel mausoleo di Lenin e portavano manoscritti di antichi indiani. La delegazione di Hariri era stata accettata, ma i doni sono state accettate, ma poco considerate. Invece, l'idea di trovare Shambhala è sembrata interessante persino alle autorità sovietiche e le hanno dato il permesso di continuare questa spedizione nelle terre di Altai. Le hanno dato persino la concessione di sviluppare le terre e sottoterre di Altai, trovando le sottoterre, metalli preziosi, l'oro, il diamante, per sponsorizzare la propria spedizione. Loro invece volevano creare nelle terre di Altai una città Svenigrad. Quando sono arrivate in Altai, loro stavano cercando entrate nella Belavoggia o Belagurie, come la chiamavano in Russia, e proprio la Shambhala chiamata in un altro nome. Volevano creare città Svenigorod, la città che doveva poi diventare la capitale del mondo, capitale delle culture mondiali, dove la cultura, la civiltà, la tradizione occidentale e orientale dovevano fondersi, diventare l'origine di una nuova civiltà che univa due mondi. Credevano che Altai è una piattaforma di comunicazione mondiale che potevano far nascere la nuova civiltà spirituale. E dall'Altai hanno deciso di andare in Tibet per portare a Lama Tibetani la proposta di questa unione spirituale su principi comunisti e buddisti. Nicolai Rerich si è autoproposto di prendere l'incarico di essere Lama occidentale. Volevano arrivare a Lhasa e portare questo messaggio ai Lama. Ma uscendo dalla Russia, sono state considerate, uscendo indisturbate e anche aiutate dai sovietici, sono state considerate dagli inglesi ovviamente le spie russe, e sono state fortemente oltraggiate. Quando sono arrivate al Tibet, dovevano attraversare l'Himalaya, sono state fermate, bloccate, arrestate, la loro carovana era arrestata in alture di Himalaya nell'inverno himalayana. Avevano più di 150 camelli, avevano con loro, era veramente una grande spedizione. Erano bloccate lì per tutto l'inverno che è durato quasi 5 mesi. A loro erano vietato commercio con la gente locale, vietato di comprare medicinale, il cibo, dovevano stare fermi, avevano soltanto le tende estive, morivano animali, moriva la gente, morivano tutti. Avevano meno 40 e meno 60 temperatura, insomma, Celsius. Elena stessa era pronta a morire. Elena partecipava attivamente insieme con i figli, che erano già grandi, ventenni, grandi ventenni, ragazzi ventenni, partecipavano attivamente a questa spedizione. Tra l'altro Elena era la guida, perché dovevano attraversare certi punti dove lei, come la donna più leggera rispetto a tutti gli uomini, doveva andare avanti e testare fisicamente la strada facendo le percorse, perché passavano su una crosta molto sottile di sale, di falde saline. Sotto c'era l'acqua, e se loro passavano malamente potevano sprofondare tutto nell'acqua, erano finite. E lei le guidava con un miracolo, facendo passare illese tra tutte le difficoltà. Suo marito, loro scrivevano diari, scrivevano le telegramme, cercavano di comunicare col mondo, far sapere al mondo la loro situazione catastrofica. Suo marito scriveva che conosceva pochissime donne che erano capaci di fare tale sacrificio e essere sempre allegre, sempre sveglie. Più grande era il pericolo, più lì era allegra, pronta e gioiosa. Nessuno l'ha mai vista triste o disperata. Spesso proprio lei proponeva, grazie alla sua chiaroveggenza, le situazioni che si rivelavano poi perfette e salvatrici. Comunque, dopo la situazione si è sbloccata, ma la spedizione comunque non è andata al suo punto di interesse, e non sono andata a casa e sono stata costretta di tornare all'India. Sono tornata all'India e hanno formato in India l'istituto che hanno chiamato Urusvati. Tra l'altro, Urusvati, il luce della stella di mattina, così si traduce questo nome, era stato il nome che è stato dato a lei. Di Mahatma Maria, dal Mahatma Maria. Suo marito, ogni libro, ogni testo che scriveva, dedicava personalmente a lei, a Elena, alla mia moglie, alla mia drughigna. Drughigna, vorrei tradurre questo termine, potrebbe essere tradotto come amica. Ma amica in russa è padruga. Drughigna è sul linguaggio, nel linguaggio viene tradotto come qualcosa di molto elevato, come baghigna, la dea, bereghigna, la protettrice. E questo suffisso igna veniva dato soltanto solo per ingrandire la capacità. Quindi lui le chiamava solo Lada, Drughigna, ispiratrice. Scriveva che ogni prova che abbiamo sopportato a San Pietroburgo, in Scandinavia, in Inghilterra, in America, in Asia, dove abbiamo lavorato insieme, studiato, abbiamo cercato di ampliare le nostre conoscenze, abbiamo creato insieme, tutto quello che abbiamo fatto è stato ispirato da te. Tutto quello che abbiamo fatto insieme doveva portare i nostri nomi, maschile e femminile. Nessuno, niente può rendere giustizia a quello che ha fatto mia Lada in quello che abbiamo fatto insieme. Chi la conosceva diceva che la sincerità, la giustizia, la costante ricerca delle verità, l'amore per lavoro, che trasforma la vita, era quella che emanava Elena. Era uno spirito molto giovane e molto forte, e tutta la famiglia beneficiava della di questo essere, questo modo di essere di Elena. In India continuano a lavorare, a scrivere i libri, a lavorare sulla dottrina di Agni Yoga. Per esempio, Elena ha scritto sotto pseudonimo di Rokotava uno dei migliori studi su buddologia mondiale, il libro Fondamento di Buddhismo, pubblicato sotto pseudonimo di Santa Hilary, Crittogramma d'Oriente, ha tradotto finalmente tutta la dottrina occulta di Blavatsky. Comunque, continuavano a lavorare fino alla loro morte, scusate, fino alla morte di Nicolai, insieme al loro istituto Urusvati, vicino in una valle di Kulo, in fondo di Himalaya. Elena Ivanovna Rerich ha lasciato questo mondo, è andata in altra dimensione 5 ottobre nel 1955 in una villa a Kuroketi, Kalimpong, e come chiedeva lei è stata cremata e sul posto della cremazione ci è stata creata la stupa dove hanno scritto Elena Rerich, moglie di Nicolai, pensatrice letteraria, amica di tanta lunga data dell'India. Questa sarebbe la biografia di Elena, ma la sua biografia è più che fisica, è biografia spirituale. Prima di tutto, il fatto stesso, che lei è riuscita a incarnare nella propria vita, il suo principio. Il principio che hanno condiviso tutti e due di unione del maschile e femminile è stato già che hanno creato una famiglia dove i figli, ammirando i genitori, hanno continuato a portare avanti il loro lavoro, portando avanti l'istituto Rosvate che hanno creato insieme. E già era tanto. Ma soprattutto vorrei adesso sottolineare la dottrina che ha creato la Elena e le profezie che aveva fatto. La Agni Yoga è una dottrina di un insegnamento religioso. Come per esempio il cristianesimo si basa su una fede in Dio, diciamo nella Trinità, il centro di attrazione di Agni Yoga è l'Agni, cioè il fuoco spirituale attraverso quale è nato l'universo. E secondo la dottrina è composto di quattro livelli: il mondo terrestre umano, il mondo sottile ultraterreno e la sua forma migliorata del mondo del fuoco. Così come le sfere superiori che una persona può conoscere solo quando arriva al punto più alto del suo sviluppo. I seguaci di Agni Yoga credono nella reincarnazione, come credevano anche loro. La persona viene concessa vita eterna in corpi diversi, in un mondo che possa raggiungere i regni superiori. E la legge più importante dell'insegnamento è la legge del karma. La Chiesa ortodossa invece ha rilasciato una dichiarazione dove sconfessa sia la dottrina religiosa che la stessa Elena Rerich. Questa dottrina però ha preso tanto importanza nella spiritualità russa moderna e ha formato tantissimo New Age e adesso viene praticata e molto seguita in Russia. La scrittrice, la filosofa religiosa, promossa attraverso le sue idee filosofiche, le corrispondenze con artisti, politici, scienziati, seguaci, più di 140 corrispondenti anche dopo la morte del suo marito. Ha lasciato nelle sue lettere tante profezie, di alcune di quelle vorrei parlare. Una di quelle è arrivo della grande donna, la madre del mondo, quando arriverà il momento di maggior difficoltà per l'umanità. Lei diceva che quando l'umanità arriverà al fondo, quando l'umanità avrà bisogno dell'aiuto, arriverà la madre del mondo. Lei riequilibra i scompensi e aiuterà al pianeta di rinnovarsi dopo la vaccanale che succederà prima di quello. Arriverà una grande donna che si sacrificherà per cominciare la nuova era, dove tutti gli esseri umani vivranno in pace, in collegamento. In un nuovo mondo non ci sarà matriarcato, non sarà matriarcale, ma ci sarà equilibrio del maschile e femminile. Diceva che è cominciato già adesso il processo dove la spiritualità avrà vinto sulla ragione e questo fonderà la nuova razza. Diceva che ci sarà l'apocalisse che coinvolgerà l'ecologia del pianeta. Ci saranno le catastrofi atmosferiche, ci saranno le malattie, ci saranno le epidemie, ci saranno le morti, ci saranno i terremoti e tante alluvioni. Però questo non ci sarà estinzione totale, semplicemente questi eventi danno modo a pensare per quanto siamo responsabili con il nostro pensiero, con le vibrazioni che emaniamo, a quello che succede nel mondo e anche nel mondo fisico-materiale. Secondo predizione di Elena Reddick, prima in cataclisma soffriranno America, Islandia, Britannia. E invece la salvezza ci sarà in Altai. E tanta gente verrà in Altai, dove finalmente ci sarà questa nuova civilizzazione e si fonderà questa città, Zvenigrad, capitale del mondo. Uno dei maggiori problemi della modernità, Elena considerava la contrapposizione del mondo maschile e del mondo femminile. E diceva che proprio attraverso, grazie a questa donna salvatrice, la madre del mondo, si riuscirà a trovare equilibrio tra questi principi creatrici e il mondo sarà salvato e verrà secondo questi principi. Tutta la sua vita le scriveva che la donna priva di istruzione, la donna priva di capacità di esprimersi nel campo sociale, donna schiava, donna serva, potrà partorire soltanto i figli servi. Soltanto grande madre potrà partorire un grande figlio, anche proprio perché figlio maschio prende patrimonio femminile e la femmina prende patrimonio maschile. Disprezzando e diminuendo e sminuendo la donna, uomo sminuito se stesso. Si può attribuire proprio a questo, la caduta dello spirito e delle civiltà dei nostri giorni. Diceva che le donne dovrebbero prepararsi di governare il paese, ma dovrebbero farlo attraverso la propria femminilità, mantenendo la propria bellezza, la dolcezza d'animo, la eleganza del pensiero e della sensazione, senza perdere il proprio sacrificio di madre e la forza della pazienza. Lei diceva che la storia veritiera ci fa vedere che anche in antichità prosperavano solo quelle popoli e civiltà dove la considerazione e venerazione del principio femminile era alto. Quando Elena ha lasciato il mondo, lo suo spirito rimane tra di noi. Stiamo ancora aspettando la rivelazione completa dei suoi diari e stiamo ancora aspettando prossime profezie. In alcuni di loro avevo previsto quello che sta succedendo ora, ma tante cose saranno rivelate. Io direi che con questo vorrei terminare la mia tesina e spero di riuscire a rendere giustizia a questa grande donna, a questa grande anima, che mi ha trasmesso tantissima bellezza. E volevo aggiungere ancora un altro fatto, che nell'anno scorso aveva presentato nella nostra scuola delle donne l'altra grande donna, la sua contemporanea, e molto probabilmente, se non di persona, ma si conoscevano bene, Kollontai. Queste due donne vivevano nello stesso periodo, vivevano nello stesso tempo. Tutte e due erano promotrici dei diritti delle donne. La Kollontai entrambe provenivano dalle famiglie facoltose aristocratiche, entrambe erano bellissime, entrambe hanno fatto e scelto la vita che volevano, entrambe sono riuscite a realizzarsi, entrambe hanno fatto vita piena di gloria, di lavoro, di successo, di alture, di sconfitte, ma Elena Rerich ha seguito la via spirituale e quella che ha fatto lei vive finora e il suo patrimonio vive finora. Da noi in Russia non dicono mai Nikolai Rerich. Dicono poco Elena Rerich, dicono i Rerich. Li considerano tutti e quattro come un'unità. E la famiglia Rerich, guidata dalla madre, guidata dalla moglie, guidata dalla donna, dove i maschi della famiglia, primo marito, poi figli, la consideravano la guida spirituale, è stato di ispirazione di tante donne colte russe. Di come dovrebbe funzionare la famiglia, ma anche di tanti uomini. Non lo conoscevo prima, ma l'ho vissuto sempre nell'ombra di questo mito di Rerich. Hanno avuto anche loro un periodo di sconfitta, perché hanno creato un patto molto importante, molto, molto particolare, che cercavano di far firmare al mondo il patto di conservazione dei riperte archeologici e beni culturali riconosciute durante le guerre, che è stato quasi firmato, è stato firmato di 23 paesi del mondo, e Nicola Erich era nominato come per Nobel della pace nel mondo, e poi sono state denigrate come spie sovietiche, e questo patto non è stato realizzato. Eppure il loro patrimonio vive ancora, vive nelle spirite, vive perché tante famiglie che conosco cercano di portare questo esempio nella sua vita, nella propria vita. Mia mamma cercava di portarmelo, io stessa cerco di portarlo nella mia famiglia per quanto riesco. E secondo me questa trasmissione diretta dell'esempio che ha fatto questa grande donna, che ha trasformato, che ha fatto nelle menti di noi giovani che stiamo studiando la sua vita, e questo è il suo compito perfettamente riuscito, compito della sua vita. Sono stata una famiglia spirituale, ma hanno un fondamento spirituale anche idealistica, ma hanno creato tante cose su materia che vivono ancora. I musei di Erich vivono ancora, l'Istituto Urostrati funziona ancora, i quadri di Erich sono ancora, suscitano ancora ammirazione, i libri di Elena si stanno ancora leggendo, Agni Yoga sta ancora funzionando. Le mie amiche, le mie coetanee seguono Agni Yoga e lo trasmettono ai suoi figli. E questo patrimonio che volevo condividere anche con voi, perché purtroppo è stato poco conosciuto in Occidente, ma è stato molto conosciuto in Russia, e questa è la mia ricchezza, e l'ho condiviso con voi. E con questo termino, ahò. Prima di concludere la registrazione, ti chiedo solo una precisazione su Agni Yoga, perché se ricordo bene è soltanto uno yoga metafisico, non c'è una parte di pratica fisica, se non mi sbaglio, nell'Agni Yoga. No, no, non c'è la parte fisica, c'è parte spirituale, metafisica, e molto karma yoga, cioè lavorare da mattino alla sera incessantemente per gli obiettivi, della spiritualità. Quindi incessante, che sceglie per te, che realizza attraverso la meditazione, l'ascolto, autopurificazione, attraverso la chiave che era la chiave della loro famiglia, amore, bellezza e conoscenza. Proprio lei scriveva nelle sue lettere, nella loro filosofia personale di Erich, amore, bellezza e conoscenza, e la chiave di questa filosofia, cioè la chiave di agire, essere veritiere, essere pure, pensare positivo. Attraverso queste chiavi, che poi hanno scritto anche nell'Agni Yoga, si arriva alle alture.